Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. Questa è la puntata numero 425, nella quale parleremo di due animali che non potrebbero essere più distanti, ma che scatenano in noi umani una simile paranoica ossessione, il Canis lupus italicus e il Macropus giganteus. Speriamo di avervi incuriositi. Lunedì 26 marzo si terrà la quarta udienza del processo agli attivisti che occuparono gli stabulari del Dipartimento di Farmacologia dell'Università degli Studi di Milano il 20 aprile 2013, giorno in cui furono liberati 400 topi ed un coniglio. In quell'occasione fu raccolto molto materiale e furono divulgate informazioni sugli esperimenti condotti su animali prigionieri in gabbie, informazioni che mai sarebbero state portate alla luce se non ci fosse stata quell'azione di disobbedienza civile. L'operazione, chiamata Abbattiamo il muro di silenzio, portò sulle prime pagine dei quotidiani e dei TG nazionali il tema della sperimentazione animale, mostrando l'orrore dei laboratori e dimostrando che esiste chi osa prendere posizione nei confronti di aberranti abusi, perché la scienza non può prescindere dall'etica e deve rendere conto, oggi più che mai, del suo operato al resto della società. Opporsi con fermezza alla mercificazione e allo sfruttamento del più debole è una questione di giustizia. Nel sito www.dentrofarmacologia.org troverete testimonianze, documenti e informazioni. Invadono l'argentario. Inseguito da un branco di lupi, sale sull'albero ragazzino, salvo. Accerchiato e attaccato da quattro lupi, la denuncia di un agricoltore. Grande spavento a Sant'Agata Feltria. Questi sono solo alcuni tra le decine di titoli, articoli e servizi allarmistici e strampalati che da anni ormai a ondate compaiono sui media. Così come a ondate si ripropone il famigerato piano ministeriale per la gestione del lupo, un progetto di prevenzione e gestione che prevede anche una quota di abbattimenti e che il ministro contro l'ambiente Galletti ha tentato più volte senza successo di sottoporre alla approvazione della conferenza Stato-Regioni. Cerchiamo di capire qual è la situazione e cosa c'è da salvare nel piano per la gestione del lupo. Oggi una petizione contro la diffusione del lupo sta tentando la scalata fino ai tavoli di Bruxelles. L'iniziativa è stata lanciata da Arnold Schüler, assessore all'agricoltura della provincia di Bolzano. Sono troppi e bisogna intervenire subito per limitarne la presenza. Anzi, siamo già in ritardo. Schuller chiede alle autorità nazionali ed europee di concedere maggiori poteri alla provincia di Bolzano per la gestione dell'animale e per l'alleggerimento della sua presenza nella zona. Il celebre alpinista Reinhold Messner, che in passato disse di essere favorevole alla cattura degli esemplari di orso considerati problematici, ora si dice favorevole anche alla petizione antilupo e a un possibile prelievo controllato del lupo in Alto Adige, che tradotto significa autorizzare la caccia di selezione al lupo. Secondo gli ecologisti, questa petizione non ha alcun fondamento scientifico. L'unico movente è offrire risposte facili all'elettorato di Schuller, fatto di cacciatori, allevatori, agricoltori. A scatenare le ire di alcuni abitanti dell'Alto Adige e l'intervento delle istituzioni è stato un episodio che risale all'agosto del 2017, quando un branco di lupi predò un gregge di pecore. Ma in tutto il paese gli allevatori chiedono che vengano riviste le norme comunitarie bloccate nello stallo politico della penisola, che ancora non conosce il nome del nuovo ministro dell'ambiente. La petizione antilupo ha raggiunto in 10 giorni poco meno di 25.000 firme, ma in 6 giorni una contropetizione della Lega Anticaccia e del WWF ne ha collezionate 22.500. L'associazione Canis Lupus è un'associazione di biologi e di titolati studiosi del lupo. Questa sostiene che in Italia ci sia una inerzia sui metodi di prevenzione, noti da tempo, ma quasi mai applicati in maniera diffusa e capillare. Il problema del piano lupo è che questo indicherebbe anche molte azioni da intraprendere per prevenire i conflitti tra allevatori e lupi, ma che non si forniscono le coperture finanziarie per concretizzarle. È stata proprio questa mancanza di garanzie sulla copertura finanziaria del piano a rappresentare uno dei maggiori ostacoli all'approvazione da parte delle regioni e a spingere verso il rinvio. Sugli abbattimenti, l'associazione Canis Lupus è molto critica. In sostanza, sostiene, dove ci sono condizioni di forte tensione sociale, il prelievo di qualche lupo è stato pensato come dimostrazione di buona volontà politica, una sorta di contentino alle fazioni più arrabbiate nei confronti del lupo. Ma gli abbattimenti selettivi di qualche individuo non produrrebbero alcun beneficio. Il branco verrebbe destrutturato, con la sola conseguenza di avere una temporanea riduzione della capacità predatoria nei confronti dei grossi ungulati selvatici, non certo verso le pecore, che anzi diventerebbero il bersaglio più accessibile. Inoltre, non è da trascurare l'impatto del piano lupo in termini di percezione da parte dell'opinione pubblica. Già da quando sono state diffuse le prime anticipazioni si è assistito a una proliferazione di titoli sui giornali del tipo «La regione apre la caccia ai lupi», «Sarà legale uccidere i lupi in tutta Italia». Di fatto, questi titoli si traducono in una percezione di minore gravità dell'atto di bracconaggio. E tutto questo avviene in un momento in cui le forze dell'ordine preposte alla vigilanza ambientale e all'antibracconaggio sono ridotte all'osso. Notizie incoraggianti arrivano invece dall'Alta Val di Taro, in provincia di Parma, dove i cittadini non ci stanno a farsi spaventare dai titoli sensazionalisti dei media e decidono che il lupo, loro, lo vogliono conoscere da vicino, studiandolo. Al grande predatore è dedicato un progetto pilota avviato dall'associazione Io non ho paura del lupo, nata nel maggio 2016 per iniziativa degli abitanti della montagna dell'alta valle del fiume Taro, un territorio ancora selvaggio nell'Appennino settentrionale della provincia di Parma, tra il Mar Ligure e la pianura padana. L'idea è quella di raccogliere fondi tramite la piattaforma Produzioni dal Basso per avviare un vasto progetto di ricerca e aiutare la salvaguardia della specie. Si può donare sulla piattaforma www.produzionidalbasso.com/ project/io-non-ho-paura-del-lupo fino al 21 aprile e il traguardo da tagliare è quello dei 65.000 euro. La musica della settimana è dedicata a quell'animale che per antonomasia è l'amico fedele dell'uomo, ovvero il cane. E quindi abbiamo ascoltato dai Cure ai Pixies qualcosa di italiano, ma ci focalizziamo in particolare su una novità. È uscito da poco tempo il nuovo album, dopo tanto tempo, di David Byrne, leader dei Talking Heads. L'album si chiama American Utopia. Finalmente, dopo tanto, non viene usato il termine distopia, che invece va molto di moda. Tra questi brani ce n'è uno dedicato alla mente del cane, ovvero Dog's Mind. Il testo è particolare: da una parte vediamo il mondo visto attraverso gli occhi dei cani, ma l'ironia di David Byrne fa sì che vede anche l'uomo nelle sembianze, nella sua vita quotidiana, di quello che è costretto a fare. Un album molto interessante musicalmente e anche a livello di testi, che riporta il nostro David Byrne ai lustri del tempo che fu. Buon ascolto. The judge was all hungover when the president took the stand, so he didn't really notice when things got out of hand. Then the press boys thank the president and he tells them what to say. There's a photo opportunity and then they're sent away to a place where nothing matters, where the wheels of progress turn, where reality is fiction, but the dogs show no concern. Now the clerks look out the windows at those dogs down in the park. Every window holds a staring face, every desk stands piled with work. Now a dog cannot imagine what it is to drive a car, and we in turn are limited by what it is we are. We are dogs in our own paradise, in a theme park of our own. Doggy dancers doing duty, doggy dreaming all day long. Dreaming all day long, happy all day long. Paradise of our own. We are dogs in our own paradise, in a theme park all our own. Doggy dancers doing duty, doggy dream. Ogni persona, dalla sensibilità animalista, antispecista e vegan, pratica molto spesso la rabbia, nel senso di ira, e potrebbe tenere un corso universitario su questo stato psichico. Meno nota invece è la rabbia come malattia virale, che consiste in un'infiammazione acuta del sistema nervoso centrale e che porta al decesso chi la contrae. Oltre il 99% dei casi di rabbia umana è causata da un morso di cane infetto, e per questo ogni anno milioni di cani vengono uccisi in modo disumano per paura di questa malattia mortale. Tuttavia, questo non ferma la diffusione della rabbia, che causa la morte di circa 60.000 persone l'anno, la maggior parte dei quali sono bambini. Ma c'è chi sta lavorando per prevenire queste morti inutili, umane e non umane, causate da questa devastante malattia. Sentiamo il servizio a cura della nostra corrispondente da Milano, Roberta Marino. Do you love this boy? Do you love, love, love? Do you love? Mission Rabbis è una ONG inglese che ha come obiettivo quello di eradicare il virus della rabbia, che è ancora oggi nel mondo responsabile di oltre 60.000 morti. Si tratta di andare nei territori in cui ci sono stati dei morti e vaccinare più del 70% dei cani 3 anni consecutivi, con il concetto di fare terra bruciata intorno al virus, con l'obiettivo specifico nel 2030 di toglierlo dall'Africa e dall'Asia. Quanti siete riusciti a vaccinarne effettivamente in una ventina di giorni? Sì, l'obiettivo era vaccinare 5.000 cani e 5.000 ne abbiamo vaccinati. Eravamo una cinquantina di persone, fra organizzatori, locali, guide, insomma driver e volontari, quasi tutti veterinari tranne 3. Non mi aspettavo di vedere che i cani si relazionano soprattutto con i bambini, ce li portavano i bambini, cioè vederli prendersi questa responsabilità di portarli anche a fare le vaccinazioni era una cosa che proprio non mi aspettavo. C'è un rischio molto alto. Sì, in un certo senso sì, perché comunque bisogna spiegare che la rabbia è mortale e passa attraverso un morso del cane che arriva al sistema nervoso. Forse c'è poca coscienza in un certo senso lì anche del problema. Rispetto ai cani, loro come si pongono? C'è ostilità? C'è paura? Direi che non hanno una funzione, prima di tutto, nel senso che noi siamo abituati a vivere i cani per la guardia, per la compagnia, per tutta una serie di motivi, no? E lì mi sembra più che altro che siano parte del territorio. Se c'è una funzione, sono gli scambi, insomma, affettivi, parentali, relazionali e soprattutto l'interazione con i bambini. Se fossi andato in questa situazione molti anni fa l'avrei vissuta diversamente. E invece negli ultimi anni ho avuto delle esperienze con i randaggi del Sud Italia e ho potuto rendermi conto che dove ci sono poche garanzie ci sono anche molte libertà che riempiono la vita e che rendono migliore la vita. I cani vivono sicuramente meno rispetto ai nostri, come vivono meno le persone. Certo. Non c'erano dati, però noi vedevamo cani di 5-6 anni massimo. Abbiamo visto qualche anziano, però era una situazione molto rara e corrisponde a quello che abbiamo visto per gli umani. La vita media lì è tra i 40 e i 50 anni, abbiamo visto 3 anziani su migliaia di persone che abbiamo incontrato. E quindi si tratta, secondo me, di perdere i nostri riferimenti per capire rispetto a un'altra cultura, non in senso giudicante, che cosa abbiamo anche perso noi e che cosa può riempire la vita anche con meno garanzie. Noi abbiamo operato nella zona del distretto Meru, che è una montagna vicino ad Arusha, zona Kilimanjaro, nord diciamo della Tanzania, e abbiamo percorso territori perché camminavamo 12 ore al giorno tutti i giorni facendo anche porta a porta, andando a cercare i cani da vaccinare, delle zone che scendevano dalla montagna fino alla valle verso le città. È veramente evidente come da una situazione di insomma libertà si andava gradatamente verso una situazione in cui l'insediamento urbano era più fitto e le persone stavano peggio e i cani stavano peggio, iniziavano anche magari a essere legati o a essere rinchiusi perché davano fastidio. E la mia riflessione è che più si riduce lo spazio, più tutti in qualche modo abbiamo delle nuove difficoltà. Mi considero comunque un attivista per la liberazione animale, lavoro in canile, come dicevamo prima, una casa famiglia. Ho messo negli anni sempre più in discussione il mio rapporto con i cani, no? E quindi un aspetto protezionista e di cura capivo che doveva essere ampliato. Quello che mi è piaciuto sicuramente è che quando sono entrato in contatto con la propaganda di questa organizzazione Mission Rabbis, lo ripetiamo, non c'era solo un discorso di sanità pubblica che veniva portato avanti, ma veniva proprio spiegato come loro volevano intervenire a favore della convivenza fra cani e umani. E io credo che quando si parla di liberazione animale essenzialmente si parla di convivenza fra specie. Secondo te il rapporto con i cani che c'è nel sud per esempio dell'Italia rispetto al rapporto che hai visto in quest'altra missione, che differenze ci sono? Quello che ho visto è che al sud chi cura i cani lo fa un po' nascosto. cioè come se fosse una cosa che va contro il degrado urbano e che quindi si porta avanti di cuore, ma in una maniera quasi un po' penitente. Invece lì è tutto più semplice, è tutto più normale. Come dicevo prima, sono parte del territorio, le persone sono parte del territorio. Ho trovato la situazione ancora con più possibilità di sviluppo. L'Italia è pervasa da un clima di isteria collettiva verso i selvatici in genere e i lupi in particolare. Dall'altra parte del mondo, in Australia, anche i canguri non se la passano molto bene. Lo rivela il documentario Kangaroo, A Love-Hate Story, storia di odio e amore, dei coniugi cineasti animalisti Kate e Michael McIntyre. Un documentario di 1 ora e 43 minuti che denuncia vari aspetti dell'uccisione dei canguri. Il loro abbattimento crudele, il loro sfruttamento commerciale, i rischi per la salute associati al trattamento delle carcasse, i dubbi sulla metodologia e l'accuratezza dei censimenti. Come suggerisce il titolo, la relazione tra i canguri e il popolo australiano non indigeno è complicata e contraddittoria. Il canguro è una grande attrazione turistica, ma per allevatori e agricoltori è un animale nocivo, una minaccia. Ovunque siamo andati a filmare, nell'Australia rurale, abbiamo trovato espressioni di odio verso i canguri, affermano i registi. Non riusciamo a capire come un animale possa essere così tanto amato e allo stesso tempo così diffamato. Il documentario denuncia anche il mancato rispetto del codice di condotta nazionale per l'uccisione compassionevole, sia degli animali adulti, sia dei piccoli, nel marsupio delle mamme canguro uccise. Trasmissione vegan deve affrontare lo scottante tema dell'alimentazione carnista e in particolare della sua filiera produttiva. Per questo segnaliamo che nelle cronache di questi giorni abbiamo avuto due casi di aviaria molto ravvicinati, entrambi nella Bassa Padana. La scorsa settimana era stato segnalato un focolaio di influenza aviaria in un allevamento di galline a Martinengo. In quell'occasione è stato disposto l'abbattimento di 135.000 capi tra galline e pulcini. Adesso, a distanza di pochi giorni, è stato individuato un altro focolaio in un allevamento di tacchini di Cologno al Serio. Anche in questo caso l'abbattimento è stato di 150.000 capi. Shake, shake, shake, shake, shake, shake. nostra rubrica settimanale di cucina, Il Pasto Gentile, è dedicata stavolta all'Africa. La ricetta è una proposta dello chef Gabriele Palloni, autore del libro La cucina regionale italiana vegana, edizioni Newton Compton, che potete trovare in libreria o ordinare via internet. Il Pasto Gentile, un frigorifero senza crudeltà. Se ci fosse la luna, se ci fosse la luna si potrebbe cantare. Si potrebbe cantare. Spesso ho proposto ricette legate alla tradizione della cucina italiana. Qualche volta abbiamo sconfinato con ricette asiatiche e sudamericane, ma raramente vi ho proposto un piatto africano. Oggi compensiamo questa lacuna con la versione cruelty free del più famoso street food senegalese, la fataya. Gli ingredienti per 4 persone sono: per la pasta, 250 g di farina, 50 g di farina di ceci, un pizzico di bicarbonato, 50 ml di olio extravergine di oliva, 100 ml di acqua, un pizzico di curcuma in polvere e del sale. Per la marinata, mezza cipolla bionda, 50 g di peperone verde, un peperoncino, 2 spicchi di aglio, sale e pepe. Per il ripieno, mezza cipolla bionda, 50 g di peperone verde, 50 g di granulare di soia e un cucchiaino di mostarda. Infine, per la salsa di accompagnamento, mezza cipolla bionda, un cucchiaino di aceto di mele e 150 g di salsa di pomodoro e dell'olio per friggere. Per prima cosa preparate la pasta, unite le due farine e impastate con l'acqua, la curcuma, l'olio, un pizzico di sale e il bicarbonato. Impastate bene fino ad ottenere un impasto liscio che lascerete riposare per un'ora avvolto nella pellicola. Nel frattempo preparate la marinata. Unite tutti gli ingredienti a crudo in un mixer e fate tritare fino ad ottenere una crema. Adesso preparate il ripieno. Tritate la cipolla finemente e fatela scottare con poca acqua. Quando questa sarà evaporata, aggiungete 2 cucchiai di olio e il peperone tritato finemente e fate soffriggere per 5 minuti. Aggiungete il granulare di soia, la mostarda e metà della marinata. Coprite con acqua o brodo vegetale, aggiustate di sale e pepe e lasciate asciugare a fuoco lento. Quindi togliete dal fuoco e fate raffreddare. Per la salsa di accompagnamento invece tritate la cipolla finemente e fatela scottare con poca acqua. Quando questa sarà evaporata, aggiungete 2 cucchiai di olio e fate soffriggere per 5 minuti. Unite l'altra metà della marinata e l'aceto di mele. Lasciate cuocere 5 minuti e unite il pomodoro. Fate ritirare a fuoco lento aggiustando di sale e pepe. A questo punto stendete la pasta ad uno spessore di 2 mm. Ricavate dei dischi con un coppapasta e farcite ogni disco con un cucchiaino di ripieno. Piegate a metà e sigillate i bordi con una forchetta. Friggete in olio ben caldo fino a quando saranno dorate. Fate scolare su carta per frittura e servite calde con la salsa di accompagnamento. Siamo in chiusura, vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata la nostra redazione al completo, che è composta da Elisa Moretti, Roberta Marino, Francesca De Matteis, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco e da Camilla Lattanzi, che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 426 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, meno 30 minuti. Stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.